Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Al Falco e il Gabbiano abbiamo incontrato spesso dei personaggi che hanno rappresentato una linea di demarcazione, che hanno cambiato la storia. Per alcuni di loro si può dire c'è stato un prima e un dopo, Jimi Hendrix, George Best, gente che ha veramente ha cambiato da quel momento la storia della sua professione, della sua arte. Cantanti, musicisti, sportivi. Bene, oggi voglio raccontarvi la storia di un gruppo di persone, attori, autori, un vero e proprio laboratorio della risata elevata, che hanno dato una svolta al mondo della comicità, hanno ispirato generazioni di artisti. Tra i loro fan ci sono personaggi come John Belushi, Martin Scorsese, ci sono io, ci sono le storie tese, insomma tutti i grandi comici hanno riconosciuto a questo gruppo di persone la capacità di avere cambiato l'approccio alla comicità. Hanno rappresentato la società inglese in maniera spregiudicata, hanno colpito al cuore la caratteristica dei britannici, cioè il loro proverbiale buon senso. Bene, i protagonisti della puntata di oggi sono i Monty Python, quelli che hanno rivoluzionato l'umorismo inglese, il British humor. Non mi aspettavo una specie di inquisizione spagnola. Nessuno si aspetta l'inquisizione spagnola. La nostra arma principale è la sorpresa. Sorpresa e paura. Paura e sorpresa. Le nostre due armi sono paura e sorpresa. È un'efficienza implacabile. Le nostre tre armi sono paura e sorpresa ed efficienza implacabile. È una quasi fanatica devozione al Papa. Le nostre quattro... No. Tra le nostre varie armi... Tra il nostro armamentario ci sono elementi come paura e sorpresa. Rifaccio l'entrata, andiamo. Il gruppo dei Monty Python è composto da 6 persone, tutti figli della rivoluzione culturale degli anni 60. Siamo in anni di fermento, di trasformazione, e l'Inghilterra guida il mondo in quegli anni. L'impero britannico si sta sfaldando, ma intanto sono arrivati i Beatles, è arrivata l'onda di cambiamento della swing in London, e tutto sta cambiando a favore di una establishment mentale inglese, ai danni invece dell'establishment politico. John Cleese è figlio di un assicuratore, cresce in un ambiente benestante, va a studiare legge a Cambridge, si distingue nello sport, è un appassionato di teatro, si iscrive alla compagnia teatrale universitaria Footlights. Tenete bene a mente questo nome perché tornerà. Cleese entra a far parte del cast del comitato di scrittura della compagnia e comincia la sua collaborazione con Graham Chapman. Anche Chapman studia a Cambridge, dove si laurea in medicina del 62, continua agli studi all'ospedale San Bartholomew a Londra. Anche lui è appassionato di teatro, anche lui entra nella compagnia Footlights, lavora ad alcuni spettacoli che riscuotono un buon successo, che saranno le basi e la formazione artistica dei futuri successi televisivi di questo incredibile gruppo. La BBC desidera scusarsi per la scarsa qualità del testo di questo sketch. Non rientra nella politica della BBC ottenere facili risate con parole come chiappe, brache, culo o pipì. Eccovi ora le parole che non devono essere mai più usate in questo programma. C puntino puntino pe, C puntino lo, Sif puntino lide, Br puntino che, Br puntino che, P puntino P puntino, Semprini. Semprini! Fuori! E a Cambridge arriva anche Eric Idle, uno dei personaggi più interessanti, più creativi del gruppo. Lui ha avuto un'infanzia meno felice di quella dei suoi compagni, ha perso il padre in un incidente stradale quando aveva 2 anni, è cresciuto in un istituto di carità, quindi ha sviluppato una personalità ribelle, sovversiva, irriverente, e come spiegherà anni dopo, l'ironia è stato il suo modo per sopravvivere in un ambiente difficile. Idle si concentra nello studio e riesce a entrare a Cambridge, alla facoltà di lingua e letteratura. Un giorno presenta alcuni dei suoi sketch a una festa universitaria, viene notato, lo invitano a iscriversi al circolo universitario di teatro. È il circolo che conosciamo già, i Footlights. Qui conosce Chapman e Cleese. Idle ha un talento naturale, scrive bene canzoni, è un talento che ha a che fare anche con la follia. Per esempio è il fondatore dei Rattles, Ruthless si legge. È una band meravigliosa, andatela a cercare. cercare. Sono una perfetta e divertentissima parodia dei Beatles, adorata dai Beatles stessi. La musica sarà per lui un elemento molto presente, sarà lui a spingere i Python a fare molti brani, e lui sarà naturalmente l'interprete, l'autore principale. Tra tutti c'è The Galaxy Song, The Meaning of Life. Revolving at 900 miles an hour. All'università di Oxford c'è anche Michael Palin, studia storia moderna. Per capire, lui è l'assassino imbranato del film Un pesce di nome Wanda, quello che adora gli animali e che per sbaglio ammazza tutti i cagnolini della vecchietta, no? Lui è appassionato di recitazione, fa lo stesso esordio di Idol, scrive e porta in scena una festa universitaria degli sketch comici. Lo spettacolo incuriosisce in particolare un certo Terry Jones, che viene dal Galles, che è a Oxford per studiare inglese, che recita nella compagnia studentesca di Oxford Review. I due cominciano a lavorare assieme ad alcuni spettacoli comici che scrivono e interpretano. Insomma, due gruppi. A Cambridge ci sono Cleese, Chapman e Idol, a Oxford invece Jones e Palin. Sarà uno show televisivo a farli incontrare tutti, uno show che si chiama Do Not Adjust Your Set. Il nome riprende la scritta che appare sugli schermi televisivi quando ci sono dei problemi con la trasmissione. Per scrivere, per realizzare questo spettacolo vengono coinvolti Palin, Jones, Idol. È un azzardo per loro perché è un programma per bambini, quindi un programma diciamo non di prima fascia, ma grazie a loro lo show diventa un successo inaspettato. E nell'autobiografia del gruppo, John Cleese, che non è ancora nel gruppo, non lavora ancora al programma, scrive così: io e Graham guardavamo sempre Do Not Adjust Your Set. Per noi era la delizia del giovedì pomeriggio, cercavamo di finire prima per guardarlo perché era la cosa più divertente che ci fosse in TV. Dissi a Graham: perché non chiamiamo i ragazzi e sentiamo se hanno voglia di fare un programma con noi? E alla fine li chiameranno davvero, questa sarà la loro fortuna. Siamo nel 1969, Cleese e Chapman ottengono un incontro con i dirigenti della BBC, riescono a convincere il network a affidare un nuovo programma proprio a loro. È un bel colpo, ma Cleese sa che avranno bisogno di una mano e così vengono coinvolti anche gli altri, quelli dell'altro gruppo, Palin, Jones e Idol. E poi arriverà un sesto membro, Terry Gilliam, è un fumettista americano che sarà fondamentale per le famose animazioni della trasmissione. Insomma, il gruppo adesso è al gran completo. Rimane solo da decidere che programma fare, perché la verità è che hanno accettato l'accordo con la BBC, ma non hanno ancora idea di cosa proporre. Ecco cosa racconta Eric Idle nella loro autobiografia. L'unica cosa che mi ricordo è un incontro al parco, da qualche parte, dove sedemmo e discutemmo della cosa con John e ci sembrò una buona idea. L'incontro iniziale al parco fu per capire se tutti volevamo farlo e se avrebbe funzionato. Poi andammo alla BBC per illustrare quello che avevamo intenzione di fare, cosa che sostanzialmente non sapevamo. E io credo che nonostante tutto questo, la cosa li convinse. Eravamo tutti professionisti, affidabili e ormai avevamo una considerevole esperienza alle spalle, chi più chi meno. I sei membri del gruppo sono menti creative, sono inarrestabili, sono dei vulcani di idee, recuperano parte dei loro vecchi materiali, li rielaborano, aggiungono idee nuove e hanno una comicità assolutamente unica, non solo per quel periodo, perché ci sono, non so, salti temporali, gag provocatorie, sketch con conclusioni improvvise, personaggi surreali, ritmi totalmente inediti per quella televisione. E in più tra di loro c'è una grande intesa artistica, scrivono divisi in gruppi. E poi arriva a chiudere tutto il lavoro Gilliam con le sue animazioni. Eric Idle dirà che Gilliam li ha resi popolari in America dando agli americani quello che volevano, cioè tette e violenza. E sempre Idle descrive così la loro fase creativa in un'intervista fatta nel 2008. John is really, really precise. John è davvero molto, molto preciso. Penso di aver scritto con lui qualcosa degli sketch di Bruce, ma poche cose. Cose divertenti. Ma lavorare con lui mi lasciava esausto. Con Michael Palin aprivamo soltanto una mezza bottiglia di rosso. Ci divertivamo e alla fine dicevamo: ma perché non ci prendiamo anche l'altra mezza? Penso avessimo intere casse di vino. Ci siamo davvero divertiti e non abbiamo mai scritto nulla. Graham Chapman non diceva mai niente e non lasciava mai la sua pipa. Un giorno mi sono detto: non dirò niente finché non lo farà lui. Dopo due ore di silenzio lui mi disse: beh, ora devo andare, ma ti prometto che lavorerò agli altri capitoli. E se ne andò. Oggi penso che sia stata un'esperienza interessante. Well, that was an interesting experience. Il gruppo è molto affiatato, tutte personalità forti, particolari, tutti allo stesso livello, un rapporto paritario, non c'è un leader. Certo, John Cleese magari è una personalità dominante, ma solo in termini artistici. Fin dall'inizio decidono che i loro nomi appariranno nei titoli in ordine alfabetico e sarà così per tutta la carriera. Chapman, Cleese, Idle, Jones e Palin scrivono e vanno in studio seguendo un calendario molto disciplinato, orari d'ufficio. Gilliam invece lavora per conto suo, porta le animazioni all'ultimo minuto, gli altri spesso non hanno neanche il tempo di vederle prima della messa in onda. E dopo settimane passate a accumulare materiale sufficiente per molti mesi di trasmissione, bisogna pensare a un nome per il programma. Le idee sono tante, divertenti, ovviamente prive di senso logico, non so, The Venus de Milo Panic Show, The Vaseline Parade, Gwen Dibley dal nome di una perfetta sconosciuta. Alla fine viene fuori un nome composto, Python, da un soprannome che John Cleese si era dato da solo, e Monty, il nome di un uomo che lavora nel pub che il gruppo sta frequentando in quel periodo. Insomma, nasce il Monty Python's Flying Circus. Graham Chapman descrive così una delle loro scelte per lo spettacolo. La nostra più grande conquista fu liberarci della battuta finale. Per anni aveva rappresentato l'impostazione classica della comicità e in qualità di sceneggiatori spesso avevamo avuto il compito di scriverla. Il produttore rimase perplesso. Se non c'è la battuta finale, come si fa a dichiarare conclusa uno sketch? Come fa il pubblico a sapere che deve applaudire? Beh, a noi non importava un granché del pubblico. Tutto è portato al limite, tutto è assurdo, pecore volanti, pesci che ballano, ministeri specializzati nei modi di camminare, cioè qualsiasi cosa. I responsabili della BBC non sono molto convinti perché temono che il pubblico non possa capire, non possa apprezzare questa stravaganza, però lasciano molta libertà ai Python, e questo è un atteggiamento illuminato, insomma allora succedeva, ecco, oggi un dirigente televisivo di qualsiasi rete, se si trovasse di fronte a qualcuno che fa una comicità nuova, rimarrebbe spiazzato, terrorizzato, perché oggi bisogna fare gli ascolti subito dalla prima puntata. Invece in quegli anni succedeva così, e poi la fine del monopolio televisivo che era stato abolito in quegli anni aveva portato la BBC a cercare di rinnovare l'immagine, anche a essere più competitiva, e lo hanno fatto nella maniera giusta. Insomma, il primo episodio del Monty Python's Flying Circus è registrato il 7 settembre 69, viene messo in onda un mese dopo. Il successo è immediato, hanno fatto centro al primo colpo, la trasmissione diventa un programma di culto, cambia per sempre le regole della comicità, diventa un fenomeno, un modello di riferimento. Per capire la portata rivoluzionaria del lavoro dei Python bisogna considerare che stanno scrivendo sketch su temi che nessuno stava trattando in televisione, era una comicità veramente senza tabù. Ascoltate questo sketch, immaginatelo sull'austera BBC 50 anni fa. Ho ereditato questa religione da mio padre, ex venditore di macchine usate e qualche volta cassetta per fiori. E sono davvero orgoglioso di essere a capo della prima religione con regali gratuiti. Con solo 8 estrazioni valide potete vincere un vescovato scelto in una diocesi di vostro gradimento. Vedete, abbiamo un approccio molto più moderno alla religione. Un sacco di religioni, niente nomi né allusioni, vanno a caccia di tipi di persone più povere, ce ne sono quante ne volete, gente povera, ladri, mascalzoni, gente povera senza un minimo di denaro, non abbiamo niente di tale sorta. La gente ricca e le sbarbine sopra i 16 anni entrano gratuitamente. La classe medio-alta è abbastanza benvenuta. La classe medio-bassa, non meno di 5.000 verdoni l'anno. La classe bassa non posso toccarla, non c'è tornaconto, capite? E alla prima stagione ne seguirà una seconda nel 70, e poi bisognerà aspettare fino al 72 per vedere la terza. La quarta stagione verrà registrata senza John Cleese. Dei sei, lui è il più attento a non cadere nelle ripetizioni, insomma non vuole sembrare autocelebrativo, ma il loro è un successo veramente globale. Prima girano l'Inghilterra, poi partono per il tour americano, perché nel 71 hanno realizzato il loro primo film, And Now for Something Complete, Completely Different, è ora qualcosa di completamente diverso. L'ironia c'è già nel titolo, perché si tratta di una raccolta del meglio dei loro sketch televisivi, però il film li aiuta a essere conosciuti e apprezzati anche dal pubblico americano. Poi sono invitati a mettere in scena una serie di show anche in Germania. Questo è un piccolo estratto di uno speciale trasmesso in lingua tedesca, dove i Python interpretano dei filosofi. Questo me lo ricordo molto bene, i filosofi impegnati in una improbabile partita di calcio Germania-Grecia. Archimede, passa Socrate, Socrate indietro per Archimede. Archimede passa ad Heracleitus, supera Hegel, avanza, avanza! Cross di Heracleitus, colpo di testa e gol! Ha segnato Socrate, i greci sono letteralmente impazziti, l'entusiasmo è alle stelle! Ha segnato Socrate sul passaggio di Archimede, in campo si accendono delle discussioni. Hegel afferma che la realtà è solo un'aggiunta a priori dell'etica non naturalistica. Kant, attraverso il suo imperativo categorico, sostiene che ontologicamente esiste solo nell'immaginazione. E Marx reclama il fuorigioco. Sì, i Monty Python ormai hanno la loro cifra stilistica. Una comicità culta, spiazzante, dissacrante, con momenti musicali assurdi, irriverente, ma anche ricercata. Le canzoni vengono scritte, composte e interpretate da loro e le rispecchiano a pieno. Un esempio è la canzone del Taglialegna, dove lo stereotipo della mascolinità viene tragicamente stravolto. Il falco e il gabbiano. Monty Python, the Flying Circus. Vi sto raccontando la storia di Monty Python, i geniali innovatori dell'umorismo inglese, il Monty Python's Flying Circus, che è il loro primo programma televisivo, andato in onda sulla BBC negli anni 70, ha ottenuto un successo incredibile, è diventato un vero e proprio programma di culto. Ancora oggi ti può capitare di vedere una replica di questo programma e capire quanto fossero rivoluzionari. Ma loro hanno in serbo altri straordinari colpi d'ala, di follia creativa vera e propria. Eh sì, perché loro sono diventati molto popolari grazie alla televisione, la loro comicità riesce nell'impresa di catturare un pubblico trasversale, è una comicità culta ma che piace a tutti. Però c'è un ma, c'è un'ombra sui loro primi trionfi, sì, perché Graham Chapman e in realtà tutto il gruppo deve fare i conti con un problema che è stato sottovalutato. Chapman beve molto, di fatto è un alcolizzato, ha iniziato a esagerare ai tempi dell'università, non ha più smesso, gli amici lo sanno, cercano di aiutarlo ma non ottengono risultati, anzi la notorietà non aiuta a risolvere il problema. Chapman ha sempre un comportamento molto controllato, però dimentica le battute e spesso loro sono costretti a ripetere la stessa scena anche 20 volte di fila. Ecco come John Cleese descrive questi problemi. Ricordo che stavamo facendo le riprese per la serie e Graham riusciva a malapena a lavorare. Non ricordava nemmeno due battute di fila e durante la terza serie fummo costretti a interrompere uno sketch perché Graham non riusciva ad arrivare alla fine. E Chapman questo problema se lo porterà dietro per ancora molto tempo, fino al 79, quando è ubriaco durante le riprese del film Brian di Nazareth e lui perde l'equilibrio, cade, batte la testa, si riprende, però lo spavento è così grande che da quel momento si impegna a smettere di bere. E Chapman però deve affrontare anche un altro problema, non per lui ma per l'opinione pubblica. È uno dei primi personaggi pubblici inglesi a dichiarare la sua omosessualità e quando presenta al mondo il suo compagno che si chiama David Sherlock le reazioni sono contrastanti. I Python naturalmente prendono tutto con molta ironia, lo ricorda Eric Idle. Ricevetti la lettera di una signora che diceva di aver saputo che uno dei membri dei Monty Python era omosessuale e sottolineava che la Bibbia, nel Levitico, dice che un uomo che vive con un altro uomo deve essere lapidato. Le risposi per ringraziarla e conclusi così: abbiamo scoperto di chi si trattava e lo abbiamo cacciato via a sassate. Sono una grande ironia, grande autoironia. I Monty Python sono proprio questo, dentro e fuori dal palco. Adesso sono famosi, però l'apice della loro carriera deve ancora arrivare. I Monty Python non si limitano a cambiare il mondo della comicità, entrano a far parte del linguaggio di tutti i giorni. Per esempio la parola spam, che oggi viene usata per indicare i messaggi di posta indesiderata, insomma la spazzatura del web, ha avuto origine da un loro sketch che rende molto bene l'idea. Morning. Morning. What you got? Well, there's egg and bacon, egg, sausage and bacon, egg and spam, egg, bacon and spam, egg, bacon, sausage and spam, spam, bacon, sausage and spam, spam, egg, spam, spam, bacon and spam, spam, sausage, spam, spam, spam, bacon, spam, tomato and spam, spam, spam, spam, egg and spam. Il primo film dei Python, la raccolta dei loro sketch migliori, non va bene come loro speravano. Accade spesso di un successo televisivo che non viene replicato immediatamente al cinema. Però il gruppo convince ugualmente Cleese a lavorare a un altro film. Questa volta bisogna fare un film vero e proprio. E quando si mettono al tavolo per parlarne, ne esce una storia assurda, la prima versione di Monty Python and the Holy Grail, Monty Python e il Sacro Graal. La storia racconta dei prodi cavalieri della Tavola Rotonda che, dopo aver girato in lungo e in largo per il Medioevo alla ricerca del Graal, finiscono per trovarlo ai giorni nostri a Londra nei grandi magazzini Harrods. La trama verrà cambiata, ma molti elementi della prima stesura rimangono invariati. Per esempio, l'assurda idea di Jones e Palin, che mettono in scena un re Artù accompagnato dal Fido Pazzi, uno scudiero che simula il trotto del cavallo sbattendo tra loro due noci di cocco. È un colpo di genio. Ah! Chi sei? Artù, figlio di Pendragon, del castello di Camelot, gioia dei Bretoni, angoscia dei Sassoni, re dell'inreta Intilghiera, dell'intera Inghilterra. E mi sono sbagliato. E questo è il mio fido scudiero Pazzi. Noi si va per le terre a cavallo dell'onde in cerca di cavalieri valorosi per la mia corte di Camelot. Chiami il suo padrone e qui punto e basta. Ma dove vai se il cavallo non... Ce l'ho? Non ce l'hai! Cosa? Il galoppo lo facevi con le noci di cocco. Eccole lì. E con ciò cavalcammo le candide distese di Norvegia, di Finlandia, di Danimarca, d'Olanda. E dove hai preso il cocco? Durante il viaggio. In Scandinavia? E niente banane, datteri e couscous? Cos'è, un rebus? No, parole crociate! E loro trasformano un problema di budget in una risorsa. E sì, perché non hanno molti soldi, riscrivono tutto a modo loro. E quello che esce è un film in perfetto stile Python, molti sketch che vengono collegati da un motivo di fondo, la ricerca del Graal. Alla fine non c'è una trama, iniziano le riprese senza neanche sapere quale sarà la conclusione, lo spiega Eric Idle. Non sapevamo come finirlo. Fu mio il contributo al finale, perché dissi: dovremmo interromperlo e via. La polizia potrebbe arrivare e arrestare tutti, e un agente potrebbe mettere una mano sull'obiettivo. Mia figlia odia quel finale. La prima volta che lo ha visto mi ha detto: finisce così, tutto qui. Ma che rabbia! E nel film ci sono anche delle scene violente, come quella del Cavaliere Nero, quella di Lancillotto, una violenza gratuita, paradossale, esagerata, surreale, che proprio per questo crea un incredibile effetto comico. E in una prima proiezione privata del film il pubblico non sembra apprezzare, molti escono dalla sala a metà spettacolo. Allora la pellicola viene tagliata, viene montata diversamente, perché deve funzionare per forza, anche perché per realizzare quel film i Monty Python si sono ipotecati le case. E alla prima del 75 Grama, nel panico assoluto, esce dalla sala durante la proiezione convinto che sia un fallimento. Passa il tempo come sua abitudine a bere gin tonic, rientra a due minuti dalla fine, però la sua preoccupazione si scioglie tra gli applausi del pubblico. Il film è piaciuto, sarà un altro successo. Bisogna fare una nota a parte per l'Italia. E Monty Python e il Sacro Graal esce nel 76, un anno dopo, però viene stravolto lo spirito della lingua originale, diventa una pellicola più simile ai film prodotti a Cinecittà in quell'epoca, infarcita con battute sessuali, con accenti regionali molto calcati, scene che vengono stravolte anche nei contenuti. Insomma, il doppiaggio in questo caso non rende giustizia. Però al di là di queste vicende, i Python hanno ancora molto da dire e il loro successivo bersaglio sarà la religione. Il falco e il gabbiano. Per i Monty Python inizia una carriera di successi, uno dietro l'altro. Li abbiamo lasciati con Monty Python e il Sacro Graal, il loro primo vero film. E un anno dopo l'uscita di questo film, siamo nel 76, loro partono per un tour in Nord America, in Canada, poi partecipano a molti spettacoli in compagnia anche di altri protagonisti dello spettacolo americano, da Alan Bennett a Neil Innes. Mentre sono a New York, un giornalista chiede ai Python quali progetti abbiano per il futuro. Idol risponde: il nostro prossimo film sarà Gesù Cristo alla ricerca della gloria. In realtà non c'è neanche l'idea di fare un film del genere. Lui risponde di getto, è una battuta, però il resto del gruppo la coglie, la cosa li diverte, decidono di realizzare davvero questo film e l'idea prende forma in Life of Brian, in Italia Brian di Nazareth. Il gruppo si prepara con attenzione, tutti studiano la Bibbia, il periodo storico della vita di Gesù, capiscono che la chiave giusta è quella di lavorare sulla figura del Messia, scelta non così ovvia, soprattutto in quegli anni, e non vogliono correre il rischio di essere blasfemi, insomma qualche limite se lo devono porre. Decidono di non parlare direttamente di Gesù, ne creano una caricatura. Il protagonista è Brian, è un personaggio che conduce una vita parallela ma molto più assurda rispetto a quella, diciamo, della sua controparte. E ecco come Terry Jones spiega la cosa. Brian di Nazareth non è blasfemo, è eretico. Non è blasfemo perché prende la storia della Bibbia seriamente. Devi credere nella Bibbia, devi comprenderla e devi conoscere la storia della Bibbia per capire veramente il film. È eretico perché si prende gioco del modo in cui la Chiesa interpreta la Bibbia. L'eresia, in sostanza, è contro l'interpretazione della Chiesa, non contro il credo in sé. E con la scusa di concentrarsi a scrivere il film, i Monty Python si trasferiscono per qualche tempo alle isole Barbados. Naturalmente è un po' difficile credere che questo viaggio possa essere fonte di ispirazione. Loro riescono semplicemente a convincere i produttori a mettere questo viaggio nella nota spese. E dopo aver scritto la sceneggiatura arriva il momento delle riprese. E il gruppo non ha perso l'entusiasmo, la voglia dei primi tempi, e ognuno di loro riesce a dare un contributo importante. Alla fine Life of Brian esce nel 79 ed è un altro grande successo. Tuo padre era un romano? E chi era? Era un centurione della guarnigione di Gerusalemme, signore. Sul serio? E come si chiamava? Mincius Maximus. C'è nessuno che si chiama così nella guarnigione? Ma no, signore. Mi sembri molto sicuro. Hai controllato? Beh, no, signore. Era un soprannome, signore. Come Muzio Sissemus o Marco Pisellonio? C'è da ridere su Marco Pisellonio. È un nome inventato, signore. Io ho un caro amico a Roma che si chiama Marco Pisellonio. Nell'82 i Monty Python partono per un nuovo tour in America con lo spettacolo Live at the Hollywood Bowl. È una vera e propria consacrazione hollywoodiana. Si esibiscono nell'arena dove avevano cantato personaggi come Frank Sinatra, Errol Garner. Tra le 10.000 persone presenti ci sono dei fan storici tipo Mick Jagger, John Belushi, tutta la truppa del Saturday Night Live, Richard Branson, Martin Scorsese, George Harrison. E questo è un brano tratto dallo show, il titolo è Sit on My Face, siediti sulla mia faccia, non c'è bisogno di spiegarvi di cosa parla. E dopo il successo di Brian di Nazareth, la Universal offre ai Monty Python 8 milioni di dollari per fare un altro film e da loro carta bianca. Ovviamente loro accettano perché 8 milioni sono un sacco di soldi. Quando la Universal chiede informazioni sul film, loro rispondono mandando un piano delle spese previste e una poesia di 4 righe. In questo film non manca nulla, è indovinato in tutte le mosse, dal senso della vita e dell'universo alle ragazze con le tette grosse. La Universal accetta a scatola chiusa, anche perché avere nella propria scuderia i Python significa che tutti gli altri comici d'America vorranno farne parte. E stavolta, per scrivere la sceneggiatura, i 6 amici vanno in Giamaica. Ovviamente non riescono a essere produttivi per nulla, a un certo punto pensano di abbandonare il progetto. Terry Jones risolve tutto, da solo pensa a una storia e a un titolo, Il senso della vita. L'idea è quella di dividere il film in una serie di momenti corrispondenti alle fasi fasi più importanti della vita: la nascita, l'educazione, la guerra, la mezz'età, la vecchiaia e la morte. E quello che esce è una specie di flusso di coscienza assurdo e grottesco, e a rendere il tutto ancora più strano si aggiunge il lavoro di Terry Gilliam, che gira un corto, un film nel film, inserito all'inizio della pellicola, The Crimson Permanent Insurance. È ambientato nel mondo delle assicurazioni e i protagonisti però sono dei pirati. E Il senso della vita esce nell'83, viene presentato anche al Festival di Cannes. John Cleese passa il tempo a dichiarare ai giornali che si vergognerebbe di una eventuale vittoria. Terry Jones fa l'opposto: arrivato all'aeroporto annuncia che vinceranno perché hanno comprato tutti i componenti della giuria. Insomma, un approccio che è stato copiato sicuramente da Elio e lo Storie Tese quando sono arrivati a Sanremo. Naturalmente non è così, loro non si prendono molto sul serio quando effettivamente vincono il Grand Prix speciale, il più importante riconoscimento dopo la Palma d'Oro. Terry Jones sale sul palco e annuncia che la giuria troverà i soldi promessi nei bagni. Bene, è la fine del film ed ecco il significato della vita. Beh, non è niente di speciale. Siate gentili con il prossimo, non mangiate i grassi, leggete un buon libro, fate passeggiate e cercate di vivere in pace e armonia con gente di ogni fede o nazione. E infine ecco delle figure assolutamente gratuite di Penny per dar noia ai censori, e speriamo per suscitare qualche controversia, il che sembra l'unico modo oggigiorno per indurre la gente satura di televisione ad alzare il fottutissimo culo e tornare al cinema. Spettacoli per famiglia? Tutte balle. Non vogliono che porcherie. Tipi che si fanno cose a vicenda con seghe a mano durante il tè di beneficenza, babysitter pugnalate con aghi da maglia da candidati alla presidenza checche, vigilantes occupati a strangolare galline, bande armate di critici che sterminano poveri esordienti. Dov'è il divertimento nei film? Ah, beh, eccoci qua. Ecco il motivo conduttore. Buonanotte. Il senso della vita è l'ultimo film dei Monty Python, anche perché nel 1989 Graham Chapman muore di cancro. Il gruppo incide ancora un paio di dischi, missando del vecchio materiale, poi si ritira dalla scena, anche se manterranno attività al di fuori del gruppo, da soli o in coppia. John Cleese e Michael Palin scrivono e interpretano Un pesce di nome Wanda del 1988. Terry Gilliam firma film del calibro della Leggenda del Re Pescatore, che vincerà Oscar del 92, Brasil nel 1985, L'esercito delle 12 scimmie del 95, Paura e delirio a Las Vegas, insomma molti film importanti. E poi nel 2014 loro si riuniranno ancora eccezionalmente a Londra per il Monty Python Live Mostly, letteralmente Monty Python dal vivo quasi tutti, cioè si ironizza anche sulla mancanza di Graham Chapman. 20.000 posti disponibili, i biglietti per la prima esauriti in 43 secondi. Lo spettacolo viene trasmesso in 1.500 sale cinematografiche in tutto il mondo in diretta via satellite. In 14 anni di attività i Monty Python hanno scritto, diretto, interpretato trasmissioni televisive, spettacoli teatrali, film, libri, canzoni. Hanno cambiato le regole del gioco giocando, hanno sdoganato dei temi che erano dei tabù. Insomma, dobbiamo veramente tanto ai loro colpi d'ala artistici un po' folli. Hanno creato uno spartiacque nella comicità e sono stati molto copiati e molto imitati anche qua da noi. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il nostro microfono, scrivete al falco@radio24.it, visitate la nostra pagina, cercateci sui nostri social, sui miei social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Giovanni Savarese e Paolo Buzzone, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Generation.